9 in punto, la versione di Oscar. Oh, eccoci qua sempre con i Doors. Questa volta devo dirvi la verità, i Doors all'inizio di questa settimana, in questo 2 aprile, auguri a chi festeggia il Francesco da Paola, che è oggi nel calendario liturgico, non si devono tanto e solo alle cronache europee, anche se qui ci sono comunque motivi per non essere iperottimisti, perché poi alla fine il vertice europeo di venerdì non ha fatto la somma di FSF ed SM per avere fino a 1.000 miliardi di euro di nuovi aiuti disponibili, ma ci fermiamo a un netto di 500 miliardi. Oppure sulla sua com del Financial Times di ieri, Wolfgang Munchau ha detto al Fondo Monetario: non aumentate le dotazioni per gli aiuti all'Europa, perché l'Europa non ha ancora capito. E quindi vuol dire che le voci autorevoli europee dicono al Fondo Monetario e ai paesi emergenti che fanno bene a puntare i piedi, ve lo avevamo già riferito. Il governo olandese continua a essere in minoranza e avere problemi seri con il Freedom Party di è il più nazionalista, che non voterà le misure di euro austerità, il partito di Geert Wilders. La Grecia si interroga sui sondaggi se il PASOK, i socialisti e Nea Dimokratia, i moderati, insieme possono arrivare a prendere il 35 o al 38% dei voti. Se prendono meno del 38% dei voti sommati, pensate qual è il livello del deflusso elettorale dei due partiti e soprattutto dei conservatori, che poi sono gli incolpevoli, perché anzi scusatemi, i socialisti, che sono gli incolpevoli perché aver mentito anni fa sul deficit greco erano stati conservatori, ma se non prendono neanche il 38% non sono in condizione neanche di fare un governo di grande coalizione dopo le elezioni. E infine, ultima cosa, in Francia il mangiavoti di sinistra, Jean-Luc Mélenchon, sta sempre più erodendo il margine nei sondaggi. Quelli domenicali ieri di Le Figaro, oramai anche al ballottaggio non è più nettissimo il successo di Hollande su Sarkozy, ed è tutto si deve all'avanzata del candidato di estrema sinistra. Queste sono notizie europee, ma direi che in questo lunedì in realtà il motivo per cui cominciamo con i Doors si deve ad alcune cose che al gattaccio che vi parla non sono proprio piaciute per niente, che si sono sviluppate in tutto il fine settimana sull'argomento tributario. Innanzitutto la consueta riproposizione annuale da parte del Ministero delle Finanze delle graduatorie medie su l'anagrafe tributaria, chiamiamola così, date in pasto ai giornali con gli imprenditori dichiarano meno dei dipendenti. Su questo, prima di passare, dico la mia raffica di opinioni, poi passo ai due ospiti, mi limito a dire, a ripetere su questo quello che il professor Raffaello Lupi, che chiamo così tante volte che oggi non l'ho neanche richiamato, mi limiterò a citare i suoi giudizi comparsi nel suo blog in questi giorni, ha scritto di fronte all'ennesima riproposizione di quei dati che sono sbagliati. Scriveva il professor Lupi: la polemica di queste ore, che poi è la solita da 30 anni, sugli imprenditori che dichiarano meno dei propri dipendenti, conferma che i mezzi di informazione non possono subire all'analfabetismo economico derivante dalla storia delle formazioni italiane. Anzi, il sensazionalismo della stampa rischia di aggravare gli inconvenienti dell'ignoranza cavalcando le classificazioni degli imprenditori fiscali. Perché sono false quelle graduatorie? Perché non comprendono, come da anni tentiamo di spiegare al Ministero delle Finanze, non comprendono nella media che si deriva dall'imposta personale fisica degli imprenditori, non comprendono la vitalità e la mortalità delle imprese, non comprendono ciò che altera la media nazionale di settore, non comprendono gli splitting familiari, perché è ovvio che il reddito che uno ricava da un'impresa personale, se un imprenditore lo divide. Non comprendono le imposte che si pagano sulla forma giuridica dell'impresa stessa, che non è che le paga qualcun altro, ovviamente, da azionisti e imprenditori stessi. Ecco, per questa ragione noi da anni imploriamo il ministero di non continuare a diffondere queste graduatorie. Tutto l'anno arrivano, quest'anno persino Attilio Befera, di fronte alla campagna dei giornali, praticamente quasi tutti che hanno riccamente, doviziosamente messo il biscotto nel latte, che dice agli italiani: vedete che ci sono gli imprenditori ladri, mentre voi i poveri, giustamente, che non potete sottrarvi col sostituto di imposta, dovete assistere a questa cosa schifosa, gli imprenditori che veramente hanno il fondo schiena. Persino Attilio Befera, e dico persino non perché non ne abbia stima, dico persino Attilio Befera perché immaginate la ritrosia con cui Attilio Befera, il capo dell'Agenzia delle Entrate di Equitalia, che è controllato dal Ministero delle Finanze, che si trovi a dover dire all'indomani quei dati non hanno alcuna fondatezza scientifico-statistica, sono infondati, sarebbe meglio non diffonderli. Attilio Befera è anni che sommessamente fa capire al ministro che, da cui dipende, che controlla le società di cui è al vertice, che bisognerebbe smetterla con questa, con questo sistema. Possiamo pensare che alle finanze sono stupidi? No, no, non lo voglio credere, quindi è voluto, e questa roba a me fa arrabbiare molto, molto, molto, molto, molto di più, a dirvi la verità. Come mi colpisce che poi debba vedere il ministro Passera a Cernobbio dire basta con i furbetti che non dichiarano. Perché parliamoci chiaro, non è mica non ero mica io al vertice di Banca Intesa che ha appena, come abbiamo letto dalle note al bilancio, perché prima non lo sapevamo se non di Unicredit, ma una volta lette le note al bilancio di Unitesa abbiamo appreso che ha transato per 271 milioni con il Ministero delle Finanze per elusione fiscale. Certo, non si tratta di imponibile non dichiarato, potreste dirmi voi, non si tratta di evasione, si tratta di una interpretazione di forma di come si tassano le unità di capitale però tassate sull'estero di fronte a prodotti e servizi che proponevano impieghi sull'estero per eludere le tasse. E allora voi capite bene che perché io devo accettare che l'ex capo di Banca Intesa dica agli italiani basta coi furbetti, quando la banca che guidava lui, mentre la guidava lui, tentava giustamente, senza che io abbia titolo per dire siete degli evasori fiscali, di interpretare le norme in maniera adatta da pagare meno tasse, come fanno tanti altri. A tanti altri non ci provano nemmeno. Perché gli italiani bisogna dividerli e spaccarli? Perché bisogna continuare a dire ah, ma tra gli italiani guadagnano più di 10 milioni di voi? Giustissimo, quello è invece sui giornali di oggi, un papers, un occasional papers di Banca d'Italia. Però peccato che i giornali non vi ricordino quel coefficiente di Gini, quello sulla distribuzione dei redditi, da noi è meno elevato che altrove, cioè negli altri paesi avanzati la situazione sta messa peggio che da noi. Io ho un po' l'impressione che dietro tutta questa campagna ci sia la volontà dello Stato di non fare vedere che la spesa corrente sale e le tasse crescono su inseguimento. Ciascuno dice sempre che non è colpa sua, è sempre colpa di chi veniva prima, ma nessuno interrompe questo flusso che porta alla perdizione l'Italia legale, quella che paga per tutti, che aumenta il pagamento per tutti, quella che giustamente dovrà pagare l'anticipo dell'IMU adesso a giugno con solo il 6% dei comuni che hanno deliberato l'adeguamento dell'aliquota, perché è chiaro, l'adeguamento dell'aliquota ce lo faranno quando noi non paghiamo l'anticipo, ma quando lo faremo il conguaglio, dopo le amministrative, perché hanno tempo fino a settembre, guarda caso, per dirci qual è la stangata vera, e così via. Cioè, uno Stato che si comporta così, pur di non far capire alla gente che il problema non è questo, pur di distrarci tutti dal fatto che la spending review non è arrivata ed è stato il viceministro Grilli a Cernobbio due fine settimane fa a dire che non ha alcuna fiducia su quanti soldi ci farà tagliare di spesa, eppure è affidata al suo collega Piero Giarda, non è che l'ho detto io, l'ha detto il viceministro Grilli. Allora, siccome se il viceministro Grilli non ha fiducia di una spending review che incida nella spesa per 5, 6, 7 punti di PIL come ha fatto la Germania nel pre-crisi e automaticamente li trasferisca in meno tasse, temo che tutta questa maniera di accumulare cifre, dati per dividerci, poiché non posso attribuirla all'ignoranza e non voglio attribuirla all'ignoranza, perché io sono l'ultimo degli ignoranti rispetto ai signori in cattedra che dominano sui giornali italiani, rispetto ai mainstream dell'opinione e, per carità, rispetto ai vertici del Ministero delle Finanze, che tanto quelli sono chiunque governi, sinistra, destra o tecnici, devo pensare che la cosa è deliberata. Se è deliberata, e lo dico con grande ritrosia, evidentemente c'è una strategia. L'unica strategia che ci so vedere io nel proporre la lettura di questi dati che indignano tutti e naturalmente muovono tutti a puntare il dito verso il vicino di casa, per dire sei tu la colpa del fatto che non si pagano abbastanza tasse, a me sembra quella di far dimenticare a tutti quanto ne paghiamo in cambio di che cosa, il fatto che siamo alla pressione fiscale record sul PIL depurato dal nero inglobato dall'Istat, record, su questo non c'è assolutamente alcun paese occidentale che ci sopravanza o ci sta alla pari. Però detto questo mi sento come un imbecille che urla, perché anche puntualmente stamattina molti di voi mi dicono che sto difendendo gli evasori. Tant'è che a un certo punto io vi dirò che sto seriamente pensando, prima che li mettano alla porta qua per i toni non consoni alla radio di Confindustria, ovviamente, di farla finita, perché è un po' di tempo che mi interrogo. Alla fine, se sui grandi giornali e sul grande corrente d'opinione bisogna reggere le code allo Stato che io penso ci rapini, forse bisogna che mi adegui anch'io. Io non lo farò mai, però evidentemente c'è qualche cosa che mi sfugge sul meccanismo per cui i criteri statistici che abbiamo titolo per chiedere agli studenti quando li interroghiamo agli esami, quando si tratta di fare il mestiere del giornalista, del comunicatore fiscale, non valgono, perché lì prevalgono i criteri ideologici, e il criterio ideologico è assolvere lo Stato, che ai miei occhi è il peggior colpevole, peggiore molto più degli italiani che non pagano le tasse, che è uno scandalo sicuramente. Il problema è che quando si arriva a questi livelli di pressione, pur di farli dimenticare, quando si impongono tasse di cui non sono precise neanche le aliquote, dicendo intanto iniziate a pagare l'anticipo per il conguaglio, vi diremo a botta data a metà, ecco, quando si tratta di questo io penso che evidentemente mi trincero dietro il professor Raffaello Lupi, lui almeno è cattedratico, beato lui, è di sinistra di formazione e di evoluzione, quindi non è sospettabile di essere un amico degli evasori, però è uno studioso del diritto tributario che secondo me pensa alla sostanza invece che a tutte queste chiacchiere demagogiche. Ovvio che non siate d'accordo, e molti di voi, sentiamo gli ospiti di oggi scelti con opinioni diverse, la mia ha contato troppo fino a questo momento. E con noi Roberto Ippolito, giornalista, autore del libro Evasori. Buongiorno e grazie Roberto. Buongiorno, grazie a te, grazie a voi. Giuseppe Bortolussi, segretario della CGA di Mestre. Buongiorno a Bortolussi. Buongiorno a te Oscar, ciao. Allora Roberto, Ippolito, ti prego invece di dirci che cosa hanno indotto in te questi dati, quelli dei 10 milioni di italiani che non pagano un euro di IRPEF, ecco, e un italiano su due, guarda, sotto i 15.000 euro, vai. Finalmente, se posso fare una battuta, hai toccato il punto centrale con quest'ultima osservazione, perché, come dire, in quei dati, secondo me, c'è la prova provata che l'evasione c'è, perché, come dire, qualcuno ogni tanto avanza perfino dei dubbi, però facciamo proprio, andiamoli a vedere, ora lasciamo perdere per un secondo imprenditori, autonomi, dipendenti. Che cosa ci dicono quei dati? Che oltre 10 milioni e 600 mila contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi pagano imposte pari a zero, nulla, 10 milioni e 6, vuol dire un italiano su 4. Poiché l'Istat ci dice che il numero dei poveri è molto più basso, è di assoluta evidenza che l'evasione fiscale in Italia è a un livello pazzesco. I dati quindi forniti dal Ministero, dal Dipartimento delle Finanze, con le analisi delle dichiarazioni dei redditi del 2010, redditi 2010 presentati nel 2011, ci consegnano questa drammatica fotografia. Certamente in modo parallelo c'è l'assoluta assenza di provvedimenti del governo da parte del taglio della spesa pubblica, si parla di tutto meno che di taglio della spesa pubblica, però la gravità e l'enormità dell'evasione è sotto gli occhi nostri. Poi se vogliamo andare nel dettaglio e andare a verificare quali sono le varie fasce di reddito e chiederci poi, incrociando dati che già conosciamo e che possiamo trovare facilmente all'anagrafe tributaria, come mai 518 italiani possiedono un aereo e hanno un reddito sotto i 20.000 euro, allora dovremmo chiederci come mai non stiamo combattendo adeguatamente la battaglia contro l'evasione fiscale, che è un danno, un'ingiustizia e provoca, certamente contribuisce all'aumento della pressione fiscale, perché chiaramente se c'è tanta gente che non paga le tasse, tanta altra gente deve pagare le tasse che gli altri non pagano. Io sono d'accordo con te, tranne che per esempio questa cosa degli aerei, degli elicotteri e delle macchine di lusso, che è un classico, lo usava Giulio Tramonti in maniera travolgente, come lo usano tanti. Basta che ricordiamo però a chi ci ascolta, poi ognuno si fa la sua opinione, e senza generalizzare, perché io non difendo chi ha un elicottero a rotazione e guadagna 20.000 euro, però caso per caso vorrei capire, è ovvio, assolutamente ovvio, che per motivi di vantaggio fiscale non conviene assolutamente intestarsi la proprietà di un jet executive, di un elicottero o di uno yacht o di automobili particolarmente costose, ma conviene farlo a chi esercita funzioni di controllo in società, eccetera, eccetera, alle società, perché questo consente alle società di scalare dei soldi, di computarli come beni sì, più sì, o meno necessari, ma, per le attività, però è così o non è così? O me lo invento, Roberto? Attenzione, intanto tutti questi meccanismi di convenienza spesso, come dire, nascondono trucchi che proprio legali non sono, quindi lasciamo perdere tutti questi espedienti, non è questo il punto. Ma sempre l'analisi delle dichiarazioni dei redditi ci rivela che spesso le rate per il leasing di un'automobile, spesso parliamo del 50% delle rate di leasing pagate in Italia, sono pagate da signori che non avrebbero un reddito sufficiente per pagarsi quelle rate. Allora la domanda diventa: perché c'è tanta gente che con tanta sfrontatezza riesce a fare questo, perché in teoria non potrebbe neanche permettersi quelle rate di leasing delle automobili, e perché non andiamo a pescarli adeguatamente in modo che trasmissioni come queste finalmente non ne dobbiamo fare più? No, no, ma infatti andiamo a pescare, perché in questo caso andiamo a pescare. Io allora, posso dire, mi consenti, siamo qua per questo. Allora, fermo restando che l'evasione fiscale non si può e non si deve combattere solo con la repressione, quindi sia chiaro questo, c'è un fatto proprio di cultura, di appartenenza alla comunità che si deve riuscire a manifestare, come dire, di persuasione del significato del perché si pagano le tasse di un paese più civile che ci si ritrova intorno al senso comune e allo Stato, e l'importanza di regole come dire, chiare, trasparenti, lineari, precise, che non cambiano ogni due minuti. Detto tutto questo, la repressione, cioè la sanzione, assolutamente serve. Ancora nel 2011, nonostante il 30 dicembre sia cominciata la stagione del blitz con quello di Cortina, ancora nel 2011, dati ufficiali, i controlli sono diminuiti. Allora io chiederei al Presidente del Consiglio Monti, che si dà il caso anche Ministro dell'Economia, caro Presidente Ministro dell'Economia, desideri aumentare, hai l'intenzione di aumentare i controlli per far sì che queste schifezze, perché di questo si tratta, non si ripetano più? Questo è un punto essenziale, perché quando diciamo di quei 518 signori che magari anche regolarmente hanno l'aereo ma hanno soltanto un reddito di 20.000 euro, che chissà come fanno a mantenerselo quell'aereo, come dire, solo per il pieno di benzina per un piccolo giretto, allora siccome sono dati dell'anagrafe tributaria, andateli a pescare, andateli a verificare, e a quel punto non ci sarà neanche più bisogno di fornire i dati, perché a quel punto sarà chiaro che quei signori sono in regola, e oppure sarà chiaro che quei signori non sono in regola, e allora giù con la sanzione pesante che io adesso che ci mi permetto di dirti, Roberto, una cosa. Io temo di dover dire che in quei dati quelle persone comprese nella lista sono già state soggette ad accertamenti. Cioè, io invece temo di sì, perché poi questo mi dicono gli amici funzionari dietro, perché queste domande, come è ovvio, tutti quelli che fanno questo mestiere gliele pongono. Il problema è che è persino possibile che ci sia gente così abile nell'interpretare le basi imponibili personali rispetto a quella della società, che è ai vertici della società in cui l'aereo è a sua disposizione e lui riesce ad andare a 20.000 euro di redditi. Perché il problema è che non l'ho disegnato io, e non l'hai disegnato tu, Roberto, un ordinamento fiscale nel quale pazzescamente, la possibilità per le grandi società, non per il 99% della impresa italiana, cioè per le piccole società artigiane e commercianti, ma più è ampio il recinto della società che tu controlli o di cui partecipi al controllo come imprenditore, più è finanziarizzata e più la catena di controllo si perde magari all'estero, più è facile interpretazioni di legge fiscale alla mano, riuscire a ottenere cose di questo genere. E naturalmente i professionisti si pagano per interpretare le norme vigenti in maniera tale che l'imponibile di chi esercita il controllo di una società rispetto a quello delle diverse società tenda a essere in regola con la legge e contemporaneamente totalizzi il minor tax rate reali, cosa che chi ha a testa una piccola impresa, come nel mio caso, come chi è reddito dipendente, come nel caso di tantissimi contribuenti, naturalmente non si può fare. Però io temo che in quel caso le cifre vengano date da uno Stato che si mette il sale sulla coda, perché non l'abbiamo scritto noi un ordinamento in cui, ripeto, abbiamo assistito per tanti anni al pre-crisi che l'aliquota, il tax rate reale delle grandi banche e delle grandi imprese, del tutto in linea con l'interpretazione dell'ordinamento fiscale vigente, che lo ha concepito e disegnato così perché così tutti crescevano, invece è il contrario, avevano 30 punti di tax rate reale inferiore a quello della media della piccola impresa italiana. Comunque Roberto Ippolito giustamente dice qui c'è un grande scandalo, che prima di imprenditori e dipendenti è quello dei 10 milioni che non pagano un euro, sono tutti poveri, l'Istat ci dice che non sono poveri, cominciamo da quelli, ma poi c'è tutto lo scandalo apicale di chi si nasconde nelle pieghe e non si fanno abbastanza controlli. Sai qual è, Roberto, la risposta che dà Befera, che ci ha ripetuto anche questo fine settimana? I controlli sono in diminuzione perché noi li facciamo appunto più affinati e portiamo a casa aumenti di incassi. In questo, altra questione, l'aumento di incassi del riscosso da evasione nel 2011 è stato 12.7 miliardi invece degli 11 miliardi dell'anno precedente, erano 5 miliardi solo 5 anni prima, quindi Befera, cifra alla mano, dice io sono comunque più efficiente, porto a casa più soldi. In pochi hanno fatto l'esercizio di capire da dove venivano quei 2.7 miliardi in più del 2011 rispetto al 2010, visto che 1.2 venivano per esempio da liquidazioni di basi imponibili regolarmente dichiarate, quindi non è imponibile emerso grazie ad accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, ecco, tanto per essere chiari. E invece l'aumento del riscosso rispetto all'aumento del riscosso dell'anno precedente su autonomi e commercianti, cioè coloro che vengono regolarmente additati come gli evasori, i trasgressori del patto sociale, eccetera eccetera, era contenuto rispetto a 1.7 miliardi in più, 12.7 rispetto agli 11 dell'anno precedente, di cui ripeto 1.1 liquidazioni da imponibili dichiarati regolarmente dai contribuenti. L'aumento dell'incasso da evasione accertata per autonomi, artigiani e commercianti era contenuto in soli 30 milioni su 1.7 miliardi di aumento del riscosso, cosa che mi fa grattare la testa su tante polemiche rispetto a poi i risultati concreti che si portano a casa, e mi fa sospettare che poi la realtà che conosco io, e ci arriveremo con Bortolussi adesso, di il 99% di artigiani, commercianti, piccolissimi imprenditori che saranno, come dite voi e come pensano in tanti, difetto dell'Italia, tutti sottopatrimonializzati, sti illusione di lavorare in proprio, sti poveri scemi che invece dovrebbero rassegnarsi a fare i lavoratori dipendenti invece di rompere le scatole e lamentarsi, io li conosco tutti in condizioni prossime alla marginalità, per il fatto che nessuno ti paga, che lo Stato vuole di più, molto di più, che le banche naturalmente sono sparite perché malgrado le aste di liquidità devono partecipare alle aste pubbliche, e poi le quattro grandi banche italiane di questo meraviglioso sistema che abbiamo raccontato che era il migliore del mondo, hanno solo per rettifiche perso 25 miliardi le prime quattro nell'ultimo trimestre, quindi si devono pure ricapitalizzare, figurati se gli avanzano i soldi per darli naturalmente a chi poi pensa di doversi dar fuoco per strada. Ma sentite, giustamente le interpretazioni sono diverse, la mia e di Roberto Ippolito è diversa, sentiamo quella di Bortolussi tra poco, intanto pubblicità. Eccoci qua, allora Giuseppe Bortolussi, a te invece i dati del fine settimana, quali considerazioni hanno indotto? Ma guarda, prima di tutto ti devo precisare una cosa, Raffaello Lupi una volta la pensava come gli altri, quando era un consulente di Visco ci ho parlato per mesi, mi spiego, convincendolo di come stavano le cose. Confermo. Ecco, e vedi, e così è un po' successo anche con Giulio Tremonti e anche con Befera. Befera, per esempio, e Tremonti mi hanno mandato una lettera l'anno scorso in cui dicevano, quando reclamavo per gli stessi dati e per lo stesso modo di elaborare quelle statistiche, mi hanno mandato una lettera che ti darò, in cui mi danno ragione, e hanno detto che avrebbero modificato. Se n'è andato Tremonti, a cui devo riconoscenza per aver capito questa cosa, ma anche Befera, al quale ho telefonato, gli ho detto, scusa, ma è il modo questo? Mi ha detto, amico mio, noi siamo l'agenzia delle entrate, qualcun altro la vede diversamente. Allora, vediamo questo diversamente. Fanno la media, quando si dice, no, i dipendenti, no, pagano più dei loro datori di lavoro, bisogna stare attenti perché è una traduzione completamente sbagliata. Intanto tra i dipendenti si mettono dentro tutti, si mettono dentro i giudici, i dirigenti dello Stato, i dirigenti delle aziende private, i dirigenti di banca, tutti, mi spiego, e si alza la media. Ma se io devo fare un confronto tra un datore di lavoro e i suoi dipendenti, prendo gli stipendi di lavoratore, di un operaio dell'edilizia, un metalmeccanico, e lo confronto con quello dell'imprenditore di quel settore. I dati ci sono e il Ministero ce li ha questi dati, perché fa volontariamente confusione? Mi spiego? E tra gli imprenditori, mi spiego, perché vedi, quando io prendo un operaio dell'edilizia, parlo delle dichiarazioni di redditi 2010, quelle che ho ancora io, perché le altre ce le ha e se le tiene il Ministero, io sconfronto, vedo che un operaio è sui 15, 16, 17 mila euro, scusa, e non il 19 intanto, e quando lo confronto con quello degli imprenditori devo stare attenti, perché sono quelli sotto i 30 mila che sono del tutto marginali, hanno un regime particolare proprio perché sono marginali. Se io confronto per esempio le imprese del nord con quelle del sud, c'è un 30-40% di differenza. Le aziende possono fare lo splitting familiare, il 73% lavora da solo. Allora io ti chiedo, se il piccolo imprenditore artigiano dichiara 23-24 mila euro com'è da me nel nord, 23-24 mila euro facendo il muratore da solo, quanti mattoni in più mettere, mi spiego, fare, mettere di muro per guadagnare 24 mila euro quando il suo operaio ne guadagna 15-16, cioè la differenza del 30-40% da che cosa si giustifica? Scusatemi, ma il discorso è proprio questo, è un modo di fare statistica da disinformazione sovietica, mi spiego, è un modo sbagliato, bisognerebbe che ci fosse un procuratore che intervenga, e lo chiederò io probabilmente, perché questo è un modo di diffondere notizie false e tendenziose, perché non è così nella realtà, perché ripeto, il piccolo imprenditore 73% lavora da solo, che dichiara il 30-40% di più del suo operaio, quanto di più dovrebbe dichiarare per essere sano secondo l'idea di qualcuno? È ora di finirla, è vergognoso che lo Stato italiano, che è uno Stato truffaldino, e le spiego perché è truffaldino, perché nasconde con questo sistema quelle che sono le sue vere colpe. Sa qual è la colpa? Che ha perpetrato la truffa del secolo. La truffa del secolo è che fa credere agli italiani che punti la benzina nelle macchine della polizia perché c'è l'evasione, ma la truffa è proprio questa, che lo Stato italiano riceve tutti i suoi soldi, non uno di meno. Lo Stato italiano, e si vede dalla pressione fiscale, si vede facendo i confronti internazionali, lo Stato italiano riceve tutto quello che deve ricevere, perché Giannino paga le tasse anche per me che non le pago, ma lo Stato li riceve tutti. Quindi uno Stato italiano che ha una pressione fiscale che sta arrivando al 45 e che dichiara che è colpa del debito pubblico, ma del debito pubblico non ha pagato niente, è ancora là, 120%, anzi ci sono 4 punti nascosti nelle pieghe e sono i soldi che lo Stato non paga dei suoi debiti agli imprenditori, se no sarebbe 124 e forse di più. Quindi non si scusa l'alta pressione fiscale con il discorso del debito, perché non ha pagato una lira di quel debito, non lo sta pagando. Ci dice, abbiamo un grave deficit infrastrutturale, abbiamo servizi peggiori degli altri paesi, paghiamo più tasse. La truffa è proprio questa. Lo Stato italiano ogni anno riceve più soldi, quello francese, inglese, tedesco, giapponese, americano, olandese, belga, riceve più soldi e depista l'attenzione della gente sull'amministratore che spreca i soldi dicendo che la colpa è dell'evasione. Se non ci fosse l'evasione non ci sarebbero problemi, non ci sarebbe deficit, non ci sarebbe. Ma ripeto, lo Stato italiano li riceve tutti, tutti, tutti, tutti. Non ne riceve uno di meno degli altri paesi. E questa è la truffa, il grande depistaggio. E scaglia, gli spiego, la pietra contro quelli artigiani, commercianti, esercenti, e non sta attento per esempio all'evasione delle società di capitali. Il 70% delle società di capitali dichiara 0 euro e un 20% dichiara qualche migliaio. Questo è lo Stato italiano, ripeto, truffaldino in questa accezione, cioè che depista la corruzione, ma il vero problema è che lui è un cattivo amministratore che ha più soldi degli altri stati, non li spende per quello che dice, ma li usa malamente per mantenere la sua corte di clientes. Questo è il dato di fatto e non si spiega, altrimenti c'è anche una rabbia sociale probabilmente sotto, cioè parte di questi del Ministero depistano anche l'attenzione da un'altra cosa vergognosissima che è da Procura della Repubblica. Negli ultimi 10 anni hanno aumentato di 40 miliardi la spesa dei pubblici funzionari, 40 miliardi, mentre il Paese fa manovre aggiuntive, mentre il Paese soffre, rischia il default, in 10 anni hanno aumentato di 40 miliardi, questa è la realtà. Io non dico che tutti gli imprenditori siano sani, ma sono quelli che procurano il lavoro. In tutta Europa, non quindi nell'Italietta che ha le imprese piccole, ma in tutta Europa il 58% dei posti di lavoro sono garantiti dalle piccole imprese, quelle di sotto dei 10, le micro, dato europeo, non mio, in Europa. E queste, dice lo Small Business Act, bisogna trovare, creare l'ambiente, la cultura adatta perché prosperino. Invece in Italia sono più tassate degli altri, sono colpevolizzate, lo Stato non le paga, avanzano 70 miliardi da questo Stato che si permette queste cose. Sarà giusto, guardi, lo farò io, anche se mi dispiace che non lo faccia qualcun altro, perché è da 20 anni che combatto questa battaglia, ma trovo ignominioso questo coso. Non dico che non ci sia l'evasione fiscale, ma certamente l'evasione è funzione anche di un fatto molto importante, del fatto della pressione. Quando la pressione è alta cresce anche l'evasione, senza considerare che quando si parla di evasione tutti si riempiono la bocca, tirano fuori i dati, e invece quando si parla di dove va sprecato il denaro, chissà perché, si fa un rapido accenno, non si tirano fuori i dati sulle società partecipate dallo Stato, che sono 7.000, dove ci sono migliaia, decine di migliaia di amministratori che percepiscono stipendi, un funzionamento, una produttività che spesso è pari a zero. Mi spiego? E questo è il problema. Allora, a tirare avanti la carretta, a creare l'occupazione, sono queste piccole imprese, bistrattate da uno Stato che non gli dà i servizi, vedi l'energia che si paga il 38,5 in più, vedi il deficit infrastrutturale, vedi i tempi della giustizia, eppure questi sopravvivono, creano lavoro, mi spiego, con uno Stato invece, come dice lo Small Business Act, di esserli amico, gli è nemico. È assolutamente vergognoso, lo ripeto, vergognoso che uno Stato si comporti così con i suoi cittadini per mantenere la sua corte di clienti. Andiamo a vedere dove sono sprecati questi soldi. Allora ti interrompo perché devi prendere l'aereo. Ho dato pari tempo a Roberto Ippolito e a Giuseppe Bortolussi. Certo, voi direte, io la penso come Bortolussi, quindi non è pari tempo, d'accordo, taccio. Bortolussi, qualunque cosa tu dovessi fare, chiedere azione della procura a tutela le cose, io sia qui o sia altrove, sia finita la mia carriera perché dicono che difendo gli evasori, non me ne importa niente, considerami una firma aggiunta e vengo gratis a farlo insieme a te, perché la mia opinione è che di Bortolussi c'è bisogno, come c'è bisogno di gente che invece si pone il problema anche di aumentare da parte di tutti la compliance, cioè l'adesione spontanea all'ordinamento. Roberto Ippolito e appartiene a questo filone di pensiero da una vita, scrive e si batte perché sia così. Io lo rispetto perché sono cresciuto in una scuola nella quale la religione civile, cioè l'adesione a valori condivisi nel paese, è fatta di questo. Io penso però che da decenni a questa parte il paese sia diventato il primo corruttore di questa religione civile, perché si comporta all'opposto di ciò che intende in realtà dichiarare di voler radicare negli italiani. Perché quando tu non paghi rispettando le scadenze e pretendi invece di farlo in maniera crescente dalla parte legale del paese, non sei credibile. Quando per radicare la tua bassa produttività hai indotto milioni di italiani e decine di migliaia di imprese a venire a patti con la bassa produttività che è connessa a un sistema in cui prezzi, tariffe, finte gare amministrate, amici per amici, tutta la sanità italiana funziona così, per esempio, per dirne una, è fatta su base discrezionale e abbatte la produttività di un paese con milioni di italiani e migliaia di imprese che si adattano a questo per sopravvivere, e anzi lo fanno a svantaggio e a detrimento di chi invece è morso dalla concorrenza, all'abbattimento degli ordinativi, alle banche che non ti danno più un euro e allo Stato che ti chiede ogni anno in più. Ecco, questo Stato è lui ad aver radicato la bassa produttività, la deviazione dalla concorrenza, l'economia discrezionale, l'economia relazionale. Non è solo la Cassa, i 250.000 italiani ai vertici della politica politica, dell'amministrazione pubblica, che campano di queste robe. Sono milioni di italiani che sono venuti a patto con questa roba qua, ed è lo stesso Stato che poi con le sue false statistiche dice agli italiani che gli imprenditori guadagnano meno dei dipendenti. Leggo il professor Lupi prima di andare al... anzi, andiamo alle strade, poi professor Lupi, rileggo lui e poi andiamo alle vostre telefonate. 9 in punto, la versione di Oscar. Mentre tornano i Doors, ecco il commento del professor Raffaello Lupi sul fatto che le statistiche fatte dagli imprenditori che guadagnano meno dipendenti sono fatte cavalcando, leggo solamente, le classificazioni degli imprenditori fiscali, che sono artigiani e commercianti. Perché? Perché le Marcegaglia, cito, quindi non è che sono io, le Marcegaglia, i Berlusconi, i Tronchetti Provera, i Ferrero, i Barilla, i Benettoni, i Bombassei, i De Benedetti, tutto il capitalismo familiare italiano, anche se siedono in Confindustria e operano attraverso le loro società, non appaiono personalmente a fisco come imprenditori. Guardate che non è che sono evasori fiscali. Continuo a rileggere, sto sempre leggendo le parole del professor Lupi, ma senza però essere evasori fiscali e senza per nulla da nascondere. Mica è colpa loro, scrive Lupi, se il fisco non ha mai fatto un'anagrafe delle proprietà delle aziende, e quindi loro dichiarano i loro dividendi esattamente come fa il cassettista della Telecom o dell'Enel, o i loro compensi da consiglio di amministrazione. Punto. Lo stesso vale per lo Stato imprenditore che tale attraverso il Ministero dell'Economia e che controlla Enel, Eni, Finmeccanica, tantissime altre società ex pubbliche. Eppure lo Stato non figura nella lista degli imprenditori fiscali. Vuoi vedere che è un evasore fiscale anche lui? Ecco, questo che può sembrare un paradosso è una delle spiegazioni aggiuntive del perché quelle classificazioni statistiche che di anno in anno vi vengono propinate, malgrado quello che alcuni scemi come me persone impegnate nella rappresentanza di impresa come Bortolussi da anni spiegano ai ministri pro tempore, e ormai col dissenso esplicito anche dei vertici dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia, evidentemente mirano a un obiettivo. Ha detto il Premier Monti in uno dei più ricchi di gaffe, viaggi internazionali di Premier che si ricordano, guardate che non ci sono solo quelle di Berlusconi che facevano veramente girare le scatole per come ci atterravano gli occhi della credibilità internazionale. Prima andare a dire che lui ha più popolarità dei partiti e poi scrivere quella palinodia terribile della difesa dei partiti sabato, che sembrava le forche sanniti, che sembravano una vittoria di Alessandro Magno rispetto al doversi rimangiare quelle parole. Poi aggiungere, meglio fare, piuttosto che come la Grecia, meglio mettere rozze entrate. Ma non si può fare né rozze entrate né come la Grecia, scusate, senza tirare in ballo ogni giorno un paese, aveva fatto con la Spagna il giorno prima, e fare casino. Si può avere una via civile in cui non si fanno rozze entrate in aggiunta, perché si taglia spesa e si diminuisce pressione fiscale e non si finisce gambe all'aria o quasi come la Grecia? Io credo che si possa, non ci vuole chissà che cosa per provarci, eppure ci vuole tanto, perché a pensarla così non c'è stato un ministro dell'economia dai tempi di Giuliano Amato a oggi. Incidere sulla spesa fa paura, perché sono milioni di italiani che vivono di corruzione di Stato, sono venuti a patto con questo Stato e accettano in silenzio e sorridendo che i fessi come me, come Bortolussi e come milioni di voi paghino il conto per tutti. Questa è l'amara verità. Ecco, più dei turpi evasori che vengono meno al patto sociale, sono i milioni di italiani che fanno il patto con lo Stato, che è contro l'efficienza generale. Tanto c'è chi paga e siamo noi. Comunque, sentiamo come la pensa Giulio da Roma. Buongiorno dottor Giannino, premesso che io sono un suo estimatore e seguire le sue trasmissioni per me sono veramente un piacere intellettuale, io trovo che negli ultimi tempi la sua trasmissione, al contrario di altre di Radio 24, stia fornendo una sorta di copertura ideologica all'evasione fiscale, non mettendo questo problema al centro di tutto il resto, ma ponendo più l'accento sulla esigenza dello Stato di spendere di meno, sull'esigenza di diminuire la pressione fiscale, che sono tutte cose giustissime. Mi dica però perché ideologia chiedere questo quando siamo alla pressione fiscale record, e perché tutti i paesi che si sono rimessi in piedi, Germania, Svezia eccetera eccetera, hanno seguito la strada che dico io e non quella, per esempio la Germania nella riforma del lavoro, e le ridò la parola, per far emergere il lavoro, dei lavori a bassa qualifica in cui i giovani finivano sfruttati, il precariato, ha diminuito le pretese sui redditi da quel lavoro fino a 10.000 euro per 35.000 a 10% a 35.000 euro, le IHG, noi le chiameremo finte partita IVA, lì la Germania le ha incentivate sui jobs e mini jobs, ha abbassato la pretesa fiscale sul loro reddito e sui contributi dell'impresa, ne ha fatte emergere 700.000, noi seguiamo la via opposta perché abbiamo molta spesa da sostenere. Perché sarebbe ideologico dirlo perché tutti gli altri grandi paesi hanno fatto così, mentre invece secondo lei io coprirei gli evasori? No, non è, cioè è una questione di priorità. Lei ha citato delle cose giustissime dal punto di vista, ma bisogna citare anche le statistiche che si riferiscono, non quelle dei giornali di oggi o del weekend, ma quello che noi vediamo giorno per giorno nella vita vissuta di gente che non fa le fatture, di gente che dice la vuoi con l'IVA o senza IVA, insomma ci sono migliaia, ciascuno di noi, a prescindere dai giornali. E allora di fronte a questo noi stiamo perdendo, rischiamo di perdere un'occasione unica, che è quella prodotta da questa eccezionale crisi economica, che ci deve portare a far cambiare geneticamente i nostri connazionali, la maggior parte dei nostri connazionali. Guarda che qui lascio fuori anche l'episodio disgraziati che ci sono stati in questi ultimi giorni, questi lasciamoli fuori, perché poi ogni cosa va vista per conto suo e valutata al di fuori di tutto il resto. Ma per questa gente ormai è un habitus, e noi dobbiamo approfittare di questa occasione storica che ci offre l'economia per fargli cambiare mentalità e per portarli a considerare noi nei loro confronti quello che sono, cioè dei criminali, perché impoveriscono gli altri, perché al limite Giulio non impoveriscono me, se pagano tutto il loro debito lo Stato si prende tutto. Giulio, non siamo d'accordo, purtroppo nel crescere dell'intermediazione pubblica così inefficiente io credo che lo Stato sia il problema numero uno e non gli evasori. Gli evasori sono una piaga che assistono alle stesse prassi di non rispetto della legge praticate dallo Stato che non ci paga e si adeguano. E lo so che questo lede la sensibilità anche di coloro che sono cresciuti nella mia scuola. Io sono cresciuto in una scuola repubblicana azionista, uguale a Malfiana, si figuri un po'. Poi però ho visto dal di dentro che cosa è diventato lo Stato, mangiando sempre di più, facendo i 7 punti di minori interessi sul debito pubblico, li abbiamo usati per azzardo morale nel fare più spesa corrente e nel alzare la pressione fiscale. Quindi bisogna che noi virtuisti apriamo gli occhi su che cos'è lo Stato oggi davvero, e non diciamo che poi ci penseremo prima agli evasori. Pensiamo entrambi insieme. Marco da Trieste. Dottor Giannino, grazie di avermi fatto intervenire. Io volevo dire solo questo, dottore, che a mio avviso la convivenza civile si fonda in primis sul rispetto delle regole, anche le più odiose. A mio avviso pagare le tasse è un dovere indipendentemente poi dalla qualità della spesa pubblica. Sta passando un po' il messaggio che siccome la spesa pubblica è di spreco e di scarsa qualità, questo ci giustifica a non pagare le tasse. Premetto, io sono un lavoratore dipendente, secondo me proprio le tasse sono un dovere morale, è un principio di convivenza civile, indipendente poi appunto dalla qualità che... No Marco, ma guardi che io... Ma vede che qui c'è... È sempre... Aspetti, non lo sto interrompendo, le do la parola. Ma vede che c'è sempre l'equivoco, ma chi cazzo si permette di dire... Questa parolaccia è voluta, lo so, il presidente della radio ci ha richiamato, non bisogna... Ma chi si permette di dire che da questi microfoni che non bisogna pagare le tasse? Io? Ma lei sta scherzando? No, ma perché mi vuole offendere? Perché vuole ridurre la denuncia a uno Stato che è il primo agente criminogeno nel nostro paese? Con la difesa di chi vuole violare le regole anche lui, non sta passando affatto questo messaggio qua. Io dico semplicemente che se nella grande tradizione plurisecolare delle rivoluzioni liberali la rottura è sempre venuta dal basso perché lo Stato si pigliava troppo, fosse un re o fosse un ordinamento autocratico eccetera, allora quello ci deve insegnare che l'esercizio di critica pubblica verso uno Stato che mente su quello che si prende per farne che cosa, quando si supera una certa serie di intermediazioni, è un dovere pubblico. Il dovere pubblico è quello di rispettare le norme, ma è vero che ci sono momenti di fronte ai quali chi crede nel diritto naturale che viene prima di quello degli ordinamenti non la può pensare come lei. Non deve rifiutarsi, non deve, voglio dire, rifugiarsi nell'esercizio solitario del violare la legge perché gli evasori mi fanno schifo, ma deve alzare la voce. Se poi alzare la voce vi dà così fastidio, me ne andrò e buonanotte. Avrete vinto voi statalisti e buonanotte ai suonatori. Bene, ci sentiamo domani.